E questa mattina voglio parlare dell'identità. Alla parola identità, credo che la maggior parte di noi gli venga in mente la nostra amata carta d'identità, quella che molto spesso perdiamo e ritroviamo, e quella che inspiegabilmente mostra sempre la foto meno bella, quella che ci fa ricordare quando eravamo giovani. E soprattutto quanti capelli avevamo pure. Un po' meno. Ok, perfetto. Leggo i vostri pensieri. Ma la carta d'identità rivela a chiunque la vede dei dettagli importanti della nostra vita. Tra questi anche l'altezza. Ora, Giuseppe non c'è perché è andato via, però l'ho già avvisato che gliela tiravo lì, la battutina. E io ringrazio Dio perché nella carta d'identità non c'è il peso riportato, perché per me sarebbe stata veramente la fine riportare il mio peso sulla carta d'identità. Scherzi a parte, ma la carta d'identità ci descrive, non solo ci descrive, ma ci permette anche di andare fuori, di uscire dalla nostra nazione, di fare dei viaggi, di esplorare dei territori nuovi, a patto che la nostra carta d'identità sia rinnovata. Se la nostra carta d'identità è scaduta, e questo ci blocca, questo ci ferma, fino a quando non la rinnoviamo. E questo è un principio valido anche per la nostra carta d'identità spirituale. Perché sapete, Dio ci ha donato una carta d'identità spirituale e molto spesso è sotto attacco. E quindi va rinnovata con la verità. E noi abbiamo il privilegio di conoscere la verità. La verità è la parola di Dio. È nella parola di Dio che troviamo la nostra vera identità. Quell'identità che Dio ha stabilito su di noi, con delle caratteristiche ben definite, che non cambiano nel tempo, che non vengono modificate per via di eventi della nostra vita, ma quello che Dio ha stabilito su ciascuno di noi è qualcosa di vero, qualcosa di saldo, qualcosa di immutabile. E se ti stai chiedendo, se ti stai facendo questa domanda, ma quali sono queste caratteristiche nella parola di Dio che riguardano me? Io vorrei citare solo alcuni, ma la Bibbia è piena di queste caratteristiche per me e per te. E ne cito alcune. In Efesini 2, al versetto 19, dice: «Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio». Isaia 43, 4: «Perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo». Romani 8, 17: «Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo». Giovanni 1, 12: «Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio e quelli, cioè, che credono nel suo nome». Il problema sorge quando a questa identità viene aggiunta e vengono aggiunte altre caratteristiche che la macchiano. E sappiamo bene come funziona. All'ennesimo fallimento nel lavoro, nel matrimonio, nelle relazioni, quel «io sono più che vincitore» in Filippesi 4,13 viene sostituito dal «non ce la faccio, sono un fallito». Davanti a quel peccato nel quale ricadiamo, bugie, dipendenza, gelosia, invidia, conflitti, quel «io sono santo» in Efesini 1,1 viene sostituito dal «sono sbagliato, non ce la posso fare, il peccato è più forte di me». Davanti a quei giorni difficili dove quel «io sono nascosto con Cristo in Dio», Colossesi 3,3, viene sostituito da «io sono solo, tutti mi hanno abbandonato, Nel condividere Gesù all'ennesimo rifiuto, quel io sono luce e sale viene sostituito da la mia testimonianza non ha valore. E tutti noi siamo vittime di questo, perché il nemico cerca in tutti i modi di minacciare la nostra identità e infine distruggerla e ammazzarla. Giovanni 10:10, ce lo ricordiamo, no? Questo verso. Il ladro viene di notte se non per rubare, distruggere e ammazzare. Così vuole fare con la nostra identità. Ma poi continua, c'è un ma. E quando troviamo il ma, c'è sempre da gioire. Ma Gesù ha scritto un'altra storia per ciascuno di noi. E come abbiamo detto prima, quell'identità che per grazia noi riceviamo da Cristo è un'identità stabile, è un'identità salda, è un'identità immutabile che non cambia. Ma sta a noi ricordarcela, sta a noi vivere la responsabilità di rinnovare nella conoscenza e nella fede in quell'identità che Dio ha donato a ciascuno di noi. E Gesù è il nostro modello, Gesù è la nostra guida, Gesù è il nostro esempio. E anche su di Lui è stata decretata un'identità ben precisa. E leggendo i Vangeli, leggendo un po' la storia di Gesù, leggeremo che Gesù nel giorno del suo battesimo, nell'uscire dall'acqua, è scritto che si udì una voce dal cielo che diceva così, e ve la voglio leggere: tu sei mio figlio amato nel quale io mi compiaccio. Ve lo ripeto, tu sei mio figlio amato nel quale io mi compiaccio. E se lo vogliamo parlare in termini giovanili, diciamo che qua Dio ha messo un bel like su Instagram, su Facebook, ha fatto un bel post e se l'è fatto dicendo, dichiarando che Gesù era suo figlio, specificando che era un figlio amato e sottolineando che era felice, che era compiaciuto, che era orgoglioso. La stessa identità però un capitolo dopo viene minacciata. Un capitolo dopo viene minacciata. E qui il nemico non è stato molto creativo in questo, perché conosciamo bene la storia della Bibbia, conosciamo che il nemico ha sin dall'inizio cercato di minacciare l'identità dell'uomo, iniziando con Adamo ed Eva, provandoci, come vedremo, con Gesù e continuando con me e con te. E la storia è quella in Luca 4, dove Gesù viene portato nel deserto e vive questo confronto, questo dialogo con il nemico, che lo vuole minacciare con tre bugie, ma Gesù non cade nel tranello, perché lui sapeva benissimo in chi era, in Dio, e non è caduto. E con quella verità ha smentito le menzogne che il diavolo cercava di fare. E oggi io e te, noi, abbiamo la possibilità di poter fare la stessa cosa che Gesù ha fatto, non credere a quelle bugie e non permettere al nemico di minacciare e macchiare la nostra identità. Siete pronti per vedere tre bugie che noi oggi decidiamo di non credere? Amen. Allora iniziamo. In Luca 4, 3 e 4, dice: il diavolo gli disse, se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo. Prima bugia, sei quello che fai. Siamo quello che facciamo. Che la nostra identità varia in base alle nostre prestazioni. Sono amato se servo bene alla Chiesa. Sono accettato se mi conformo con la massa. Sono perdonato se leggo e prego tutti i giorni. E questa è una bugia, e non a caso Dio identifica Gesù come suo figlio amato senza che Gesù aveva iniziato a fare qualcosa. Gesù non aveva insegnato ancora, Gesù non aveva guarito ancora, Gesù non aveva insegnato nessun sermone sul monte, ma Dio lo ha chiamato figlio indipendentemente da quello che lui poteva fare. L'identità di Gesù non viene condizionata dalla sua prestazione. Gesù era figlio prima di fare qualcosa. E il nemico qui associa la figliolanza al fare, la figliolanza al miracolo. Se sei, fai. Se non trasformi quelle pietre in pane, in fondo non sei. Ma la verità è che Gesù non doveva dimostrare il suo essere figlio attraverso un miracolo. Lui lo era a prescindere. Gesù non doveva dimostrare nulla al nemico che stava chiedendo al pane della vita e alla pietra angolare di trasformare dei piccoli sassolini in delle ciabattine. Il nemico ancora oggi sfrutterà ogni occasione per farci credere il contrario, che noi siamo quello che facciamo, che noi siamo quello che facciamo. E se noi crediamo a questa bugia, ci ritroveremo a vivere la nostra relazione con Dio, la nostra relazione con la Chiesa, la nostra relazione con gli altri, come una serie di prestazioni che determineranno la nostra identità e il nostro valore. Io servo la Chiesa, così farò contento il mio pastore e il mio leader, è perché è da lì che dipende il mio valore. Prego, leggo e do la decima non come atto di adorazione, ma perché quello determinerà la qualità della relazione con Gesù. E se penso alla mia vita, riconosco di essere caduto in questa trappola, specie nei primi anni in cui servivo la Chiesa di Mottola. Quello che ho iniziato a fare è che ho iniziato a misurare la mia identità in base al successo del ministero, in base a quante persone nuove venivano agli incontri e cose di questo genere. Ma poi Gesù mi ha fatto comprendere col tempo che con Dio non funziona così, che noi diventiamo figli nel momento in cui crediamo in Lui. È in quel momento che noi riceviamo tutte le caratteristiche di figli di Dio nella nostra identità: amato, perdonato, accettato, a prescindere da quello che noi possiamo fare o quello che noi non possiamo fare. Gesù ha pagato tutto il prezzo su quella croce e io e te non dobbiamo fare niente se non quello di credere in quel sacrificio. Amen? Seconda bugia. Verso numero 5, 6, dal 5 all'8. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Se dunque tu ti prosti ad adorarmi, sarà tutta tua. Gesù rispose: sta scritto, adora il Signore, il tuo Dio, a Lui solo rendi il tuo culto. Questa è la seconda bugia. Sei quello che hai. Siamo quello che possediamo. Il nostro valore, la nostra identità dipende da tutto quello che si può quantificare, in ricchezza, in soldi, in proprietà o povertà, o categorizzarla nella società in cui viviamo, in ruoli, in titoli, in professione. Più è prestigioso il tuo ruolo, è più alto il tuo valore, più è ricco il tuo conto in banca, e più importanza avrai. E questa è una bugia, e questa è una grande bugia. Il nemico ha tentato Gesù, offrendogli tutti i regni del mondo, tutte le ricchezze, in cambio della sua adorazione. Ma come figlio di Dio, Gesù non avrebbe potuto mai adorare se non il Padre. Eppure il nemico gli ha mostrato la possibilità di avere e di possedere. E alla stessa maniera, allo stesso modo, il nemico ancora oggi vuole farci credere che la nostra identità è basata su quello che abbiamo e su quello che non abbiamo. Ho un ottimo lavoro? Sono importante. Sei un disoccupato? Non vali niente. Ho avuto 30 lode? Valgo. Sono ripetente? Non ho nulla da offrire. Sono un professionista? Posso guidare un gruppo? Posso diventare capogruppo? Ho la terza media? Non sono capace. Nessuno mi ascolterà. E questa è una grande bugia. Il problema diventa quando noi identifichiamo nei titoli terreni la nostra identità, in quella targhetta avvocato, professore, ingegnere, pastore, leader, responsabile, o nello sconforto dell'altra targhetta, casalinga, disoccupato, ripetente, piuttosto che negli appellativi che Gesù ha pagato a caro prezzo per me e per te, che sono figlio, che sono ambasciatore, erede, discepolo. E quando siamo forti di questa eredità, che noi possiamo fare la differenza nei posti dove siamo. Possiamo influenzare il nostro posto di lavoro, possiamo influenzare le nostre scuole, possiamo influenzare le nostre famiglie. Amen? Gesù non è interessato al nostro curriculum. E l'Apostolo Paolo l'ha capito molto bene. E lui di targhette ne poteva avere tante, le migliori. Aveva tutte le capacità, tutte le competenze, tutte lui ce le aveva. Eppure, vediamo cosa scrive nella lettera dei Filippesi al capitolo 3, dal verso 4. E dice: se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei, quanto alla legge, fariseo, quanto allo zelo, persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Ascoltate ora, ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato un danno a causa di Cristo. Paolo aveva imparato a dare valore all'identità, non che gli uomini gli avevano attribuito, ma quella nella quale Gesù l'aveva creato. E noi oggi, in questo momento, possiamo ricevere questa verità e comprendere il giusto valore dell'identità che Dio ci dà e non quella che gli uomini ci possono attribuire. Amen? Terza bugia. Il diavolo non si stanca, diciamo, eh? Continua. Non l'ha capito ancora. Vediamo se lo capiamo poi noi. Allora lo portò a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù di qui, perché sta scritto, egli ordinerà ai suoi angeli che ti proteggano, ed essi porteranno sulle mani perché tu non inciampi con il piede in terra. Gesù rispose: è stato detto, non tentare il Signor Dio tuo. E qui la storia si fa leggermente più pesante per il senso e per il significato profondo che questo invito viene fatto a Gesù. E il diavolo usa anche un verso della Bibbia per giustificare il suo tentativo. E quello che sta dicendo, in altre parole, è: se tu sei il figlio di Dio, buttati, perché ci saranno degli angeli che ti salveranno. E Gesù non cade a questa trappola perché sapeva benissimo che era una provocazione, perché quell'invito era un invito a cambiare il piano che Dio Padre aveva stabilito per lui. Gesù non doveva essere riconosciuto come figlio di Dio buttandosi giù dal tetto del Tempio, ma morendo sulla croce. La sovranità di Gesù non doveva essere riconosciuta per il salvataggio di una schiera di angeli, ma per distruggere la morte risuscitando. E il tentativo del diavolo che fa Gesù è molto più grave di una semplice caduta libera. E qui il diavolo stava proponendo a Gesù di cambiare il piano che Dio Padre aveva stabilito sin dall'inizio dei tempi. Buttandosi giù, Gesù si sarebbe potuto salvare, certamente che sì. Come avrebbe potuto farlo lì sulla croce, quando uno dei due ladroni si rivolge a lui e gli dice: se tu sei il figlio di Dio, nuovamente, identità, se tu sei il figlio di Dio, salva te stesso. Lo poteva fare Gesù? Sì, ma non era il piano del Padre. E lui come figlio è rimasto ubbidiente fino alla fine. Fino alla fine è rimasto ubbidiente. E il nemico usa le stesse carte con noi. Ci invita a disubbidire a Dio, peccando, sminuendo la gravità di ciò che commettiamo. E fa sempre così. E vedilo quel video. Oh, e vedilo, non c'è nessuno. I tuoi genitori non ci sono. Tua moglie non c'è. Che vuoi che sia, lo fanno tutti. Quel torto? Assolutamente no. È umanamente impossibile perdonarlo. Gesù lo comprende. Lui simpatizza con le vostre sofferenze. Perché devi perdonare? No. La verità la devi dire tutta? No. Perché? Va bene anche metà. Tanto ci sono le bugie bianche. E quando cadiamo in questo tranello, il nemico non si ferma, ma continua. Continua perché vuole farci credere che davanti a quella caduta la nostra identità in Gesù è intaccata, che la nostra identità in Gesù ormai è persa, che non abbiamo più possibilità di ravvedimento, che non abbiamo più possibilità di cambiamento. Hai visto quel video? Dio non ti perdonerà mai. Dio è deluso da te. Non pregare, non chiedere aiuto, non andare nemmeno in chiesa, perché hai visto quel video? Porti ancora rancore per quella persona? Non pregare, perché tanto Dio non ascolta te. Non ascolta le tue preghiere. Dio non ti perdonerà mai. Stai parlando di Gesù con la stessa lingua che hai mentito? No, non puoi. Non puoi, perché nessun figlio di Dio farebbe una cosa simile. No, non farlo. Ormai sei da solo, Dio non può farci nulla. Hai sbagliato. Quanti si riconoscono in queste accuse? E io credo che il nemico non ha risparmiato nessuno di noi nel dire queste bugie, nell'attaccare la nostra identità. Lo ha fatto, lo continuerà a fare, ma noi possiamo e dobbiamo fare quello che Gesù ha fatto. E quello che Gesù ha fatto è semplicemente restare fermi. Gesù è stato fermo, Gesù è stato saldo, perché lui sapeva in chi era in Dio. Quando gli è stato proposto di trasformare delle pietre in pane, lui è rimasto fermo perché sapeva della sua identità di figlio, che era a prescindere, che lui era figlio non perché doveva fare, ma per grazia, così come lo siamo noi. Noi siamo figli di Dio per grazia. Nella proposta di adorare, Gesù è rimasto saldo perché lui sapeva chi era. Nel buttarsi giù, lui è rimasto fermo perché sapeva che il piano del Padre era molto più grande. Era un piano che riguardava la salvezza del mondo. E Gesù non ha ceduto. E al verso 13 è scritto che il diavolo andò via. E questo può succedere anche a noi oggi, se noi smettiamo di credere a quelle bugie. Quando noi smettiamo di credere a quelle bugie del nemico e ci appropriamo della verità di Cristo, e il diavolo scappa. La chiave è sempre quella. È sempre quella di ricordarci chi siamo. Quando arriva quella tentazione, tu sei più che vincitore. Quando arriva quel momento difficile, tu sei equipaggiato, sei potenziato, di nulla mancante, perché condividi lo stesso DNA di Gesù. Quando hai quel senso di solitudine, tu sei figlio di Dio. Quando vivi quel senso di inadeguatezza, di povertà, tu puoi dire che sei coerede in Cristo. E non so, ma questo può essere un messaggio scomodo, ma è anche vero che è un messaggio che ci porta alla realtà, ci porta a un amore incondizionato, a un'identità che noi non ce la potevamo guadagnare, ma è solo per grazia. Quando noi crediamo, di diritto diventiamo figli. E io prego che questa mattina noi possiamo appropriarci di questa verità, che noi possiamo sentirci figli, che noi possiamo sentirci più che vincitori in colui che ci fortifica. Io vorrei invitarvi a chiudere i vostri occhi. Non so quante bugie sono presenti in questo luogo che stanno minacciando e stanno macchiando le nostre identità. Ma una cosa è certa, è che quando noi permettiamo alla verità di Cristo Gesù, quelle bugie crollano, quelle bugie spariscono. E non c'è da aspettare domani, ma oggi Dio vuole rispolverare quelle verità che forse per tanto tempo sono state nascoste dalle bugie del diavolo. Che tu in questo momento possa confessare davanti a Lui quelle verità che sono tue. E permettere a Dio di fare un'opera miracolosa questa mattina.